Gli obiettivi di Indie Pride in realtà non sono nel festival, ma sono in una, diciamo, programmazione a lungo termine proprio con le varie iniziative dell'associazione. Il nostro obiettivo massimo è quello di debellare omotransfobia, bullismo e sessismo. Forse utopia, però ci stiamo provando. Ecco, la musica è, diciamo, forse un concetto banale, ma sempre meglio sottolinearlo, è un qualcosa che unisce. Quindi qual è l'importanza della musica all'interno di questa lotta contro? Beh, la musica sta alla base della nostra associazione, perché noi abbiamo proprio deciso di lavorare con musicisti e dei lavori per mandare questo messaggio, proprio consapevoli del fatto che la musica arriva a tutti, è trasversale, è un momento appunto di unione, di condivisione e anche di sensibilizzazione, e soprattutto è forse una delle arti che più arriva ed emozionante, quindi si può mandare assolutamente un messaggio emozionando. Alcuni artisti che parteciperanno al festival? Con gli artisti stiamo, oltre a quelli che partecipano al festival in generale, stiamo cercando proprio di fare un lavoro di rete, cioè nel senso che non partecipino, non salgano solo sul palco, ma che ci sia proprio una collaborazione a lungo termine su tutte le varie iniziative che già abbiamo e quelle nuove che avremo, oltre il fatto che noi speriamo che siano loro stessi a proporci delle cose, delle iniziative, delle idee, o di fare appunto delle proposte per poterle portare avanti.